Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Prime piogge questa mattina sulla regione, resta l'allerta ma finora pochi disagi, smottamento a Piani di Luzza. Hotspot e migranti, ipotesi tavolo tra prefetti, il sindaco di Trieste Di Piazza annuncia in 200 saranno trasferiti. Ripresa produttiva, Pordenone subito in assemblea alla Savio, in Electrolux cassa integrazione agli sgoccioli. Alto 3 metri, lungo 5, il Mammut 8 da oggi a Trieste, protagonista di una giostra sull'era glaciale. In 200 ieri a Clout, alla prima Gran Fondo Dolomiti Friulane Bike, quarta prova del Tour FVG MTB. E buongiorno in questa edizione del giornale radio delle 12:30. Cominciamo subito con il maltempo nella mattinata. Temporali e rovesci sparsi hanno interessato maggiormente le Alpi e le prealpi carniche. Nel pomeriggio il maltempo si sposta a est, con cielo da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste sono le temperature registrate alle 11. A Trieste 25 gradi, con mare poco mosso, con temperatura di 27 gradi. A Udine 23 gradi, a Gorizia 22 gradi e 5 decimi. A Pordenone 21 gradi e 5 decimi. A Piancavallo 14 gradi. A Sappada 13 gradi e mezzo. A Tolmezzo e Tarvisio 18 gradi, fuori di sopra 15. In montagna, sul Monte Lussari 13 gradi e sullo Zoncolan 11 gradi. Sulla costa, Lignano 25 gradi e 5 decimi, a Grado 24 gradi e 5 decimi. La temperatura del mare in entrambe le località è stata di 28 gradi. E continuiamo con le previsioni. Oggi pomeriggio il tempo sarà instabile, con cielo in prevalenza coperto. Durante tutto il corso della giornata, più riprese saranno possibili rovesci e temporali, alcuni dei quali potranno essere forti. Le piogge saranno in genere intense, localmente stazionarie e molto intense. Sulla costa soffierà scirocco moderato, con raffiche anche sostenute. Sulla zona montana vento in quota moderato da sud, temperature in calo con minime che verranno raggiunte la sera. Per domani cielo da nuvoloso a coperto, durante la giornata più riprese, possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili verso pianura e costa. Le piogge da deboli a moderate saranno intervallate da lunghe pause. Da pomeriggio sulla costa potrà soffiare bora moderata. E ci sono delle code sulla 4 in zona dell'uscita di Villesse a causa di un incidente che è avvenuto da poco e che avrebbe coinvolto 5 mezzi nella direzione da Trieste a Palmanova. I vigili del fuoco di Gorizia hanno intanto inviato 2 mezzi per controllare la situazione. E passiamo alla crisi migranti. Un primo passo per risolvere le criticità di Trieste sarà il trasferimento di 200 stranieri. A comunicarlo è stato questa mattina il primo cittadino del capoluogo giuliano, mentre sarebbe a breve in programma un incontro dei prefetti della regione con il commissario Valerio Valenti. Una chiamata in tarda serata da parte del ministro dell'interno Piantedosi per sbloccare il trasferimento di 200 migranti da Trieste sugli oltre 500 in cerca di sistemazione. Ad annunciarlo il sindaco Di Piazza a margine di un evento. L'ipotesi non trova ancora conferma ufficiale, ma nei prossimi giorni il commissario nazionale all'emergenza migranti, Valerio Valenti, dovrebbe incontrare in riunione tutti i prefetti del Friuli Venezia Giulia, in videoconferenza. All'ordine del giorno il controverso hotspot, del quale Di Piazza però non avrebbe parlato con il Viminale. Il primo cittadino di Trieste propone il Friuli, il territorio palmarino insorge per l'ipotesi al Micco, i sindacati di polizia lo vorrebbero al confine con la Slovenia, c'è chi propone la montagna e intanto la polemica politica in furia. Roberto Novelli di Forza Italia. La maggioranza regionale su dove posizionare questo eventuale hotspot deve ragionare insieme, sono sempre trovate le soluzioni, però dove ci sono delle comunità che reagiscono rispetto al posizionamento dell'hotspot a casa loro è giusto che vengano ascoltate. Io ritengo che se possibile l'hotspot vada realizzato ma in luoghi isolati. Serena Pellegrino di Alleanza Verdi Sinistra. Sono affermazioni degne della peggiore destra xenofoba, che per anni ha accettato gli stranieri come lavoratori per garantirsi i propri privilegi, purché siano invisibili fuori dalle fabbriche. Ora non vuole l'accoglienza diffusa, ma i megacentri. E se Novelli li vuole recintati nelle vallate di montagna, il collega Mazzolini teme l'invasione. Sembrano tutti affetti da sindrome NIMBY. Si faccia, purché non nel mio giardino. Dall'hotspot i trasferimenti dovrebbero essere immediati, tuttavia, sottolineano i critici del progetto, non esiste pianificazione nazionale sulla ripartizione dei migranti, bensì singole richieste di trasferimento di volta in volta da parte dei prefetti, trasferimenti crollati nei mesi estivi e senza accordi internazionali anche le espulsioni non avvengono. Nel 2022 appena 3.916 rimpatri in tutta Italia, principalmente però in Tunisia, Egitto e Marocco, paesi non interessati dalla rotta balcanica. Da inizio anno, nella sola Trieste, l'ICS ha contato oltre 8.000 arrivi. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E torniamo quindi sull'allarme del maltempo, come abbiamo annunciato prima nella mattinata. Temporali e rovesci sparsi hanno interessato maggiormente le Alpi e le prealpi carniche. Nel pomeriggio il maltempo si sposta a est. Sentiamo il servizio di Sebastiano Franco. Il maltempo previsto ha portato nella mattinata temporali e rovesci sparsi da sud a nord, interessando maggiormente le Alpi e prealpi carniche. Pioggia intensa anche nella pedemontana pordenonese. Non ci sono stati però danni particolari, almeno finora. C'è stato uno smottamento già risolto lungo la regionale 355 a Forniavoltri, in località Piani di Luzza. Una caduta alberi a Comeglians e a Vito d'Asio. Danni per vento forte a Montereale Valcellina, in località Grizzo. A Sappada, in prossimità di Borgo Cretta, c'è stato uno smottamento contenuto lungo una viabilità secondaria silvopastorale. Inoltre un allagamento già risolto a Forni di Sotto. I temporali al mattino più forti si sono scaricati in mare, in particolare nel Golfo di Trieste. Direttore della Protezione Civile Regionale Aristei, qual è l'evoluzione prevista nel pomeriggio di questa ondata di maltempo? Ma ci aspettiamo il ripetersi di questi fenomeni temporaleschi a celle che si alimentano e si spengono in poco tempo e che interesseranno tutta la regione, in particolare si prevede la zona montana e pedemontana. Fino a questo momento non ci sono stati danni particolari, le zone più interessate sono state comunque quelle delle Alpi prealpi carniche e anche la pedemontana pordenonese. Sì, abbiamo avuto dei fenomeni localizzati, anche intensi, in particolare nella zona di Sappada, Montereale Valcellina e Forni di Sotto, nonché anche Forniavoltri, però sono fenomeni localizzati che hanno portato qualche danno localizzato, ma non particolarmente grave. Palmanova, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ripresa della produzione industriale dopo la pausa di agosto. A La Savio, macchine tessili di Pordenone, sale la tensione per i mancati accordi sul premio di risultato, mentre continua a preoccupare Electrolux, dove la cassa integrazione è ormai agli sgoccioli. Nel primo giorno di rientro dalle ferie, le lavoratrici e i lavoratori della Savio Macchine Tessili di Pordenone sono riuniti in assemblea. I 330 dipendenti si sono trovati la sorpresa di accordi aziendali disdetti dalla proprietà, la multinazionale belga Van de Ville, in pieno agosto. Salterebbe così il valore attuale degli anticipi mensili dei premi di risultato, ma i sindacati FIM, FIOM e WILM contestano anche il passo indietro dell'azienda sulla richiesta di un premio di risultato consolidato in busta paga a 240 euro lordi annui a fronte del recupero di produttività pari al 34% in 3 anni richiesto agli operai e previsto dal piano industriale. Simonetta Chiarotto, segretaria generale FIOM. È chiaro che nel momento in cui siamo a discutere un premio di risultato e questo premio è legato al piano industriale dove si recupera produttività, quindi i lavoratori lavorano di più nelle stesse ore e si chiede un consolidamento e l'azienda non lo concede, è chiaro che il lavoratore in questo momento non ha sicuramente visto di buon occhio l'azione che ha fatto l'azienda. Nel pomeriggio avremo la seconda assemblea. Prevedete azioni? Per l'atteggiamento che ha avuto l'azienda la risposta deve essere uguale. Continua a preoccupare anche la situazione di Electrolux. La cassa integrazione ordinaria è agli sgoccioli. Il 31 agosto a Bologna è previsto il coordinamento nazionale in cui si discuterà anche di ammortizzatori sociali. Gianni Piccinin per la FIM. Porcia è rientrata dalle ferie il 21 di agosto, ma già ha fatto 2 giorni di cassa integrazione, sembra che proprio durante le ferie i magazzini non siano calati e quindi gioco forza dovremmo usare ancora lo strumento. Stessa cosa al Professional, sono queste le due principali aziende, compreso l'indotto, che in questo momento hanno un rallentamento. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Camera di Commercio Alto Adriatico mette a disposizione il servizio Cyber Exposure Index, un test approfondito che il rischio di cyberattacchi sul rischio di cyberattacchi cui è esposta un'impresa. Fornisce un report puntuale, uno subito e una distanza di 6 mesi, sui punti vulnerabili che possono essere sfruttati dall'esterno, oltre a informazioni sulle fughe di dati relative a utenze e password legate all'azienda. Lo strumento, che sarà a pagamento, è messo a disposizione gratis alle prime 30 imprese che manifesteranno interesse. Per partecipare le imprese dovranno scrivere all'indirizzo pec@pnud.camcom.it inviando il modulo di adesione firmato che si trova sul sito www.pnud.camcom.it insieme alla copia del report PID Cyber Check compilato che si trova sempre sul sito nella sezione dedicata ai servizi digitali e al PID. La sanità triestina raggiunge il vertice dell'Agenzia Europea del Farmaco. L'EMA Paolo Gasparini è infatti stato scelto dal Ministero per rappresentare l'Italia al Comitato per i Medicinali, che ha il delicato compito di approvare i farmaci innovativi e quindi decidere che cosa può essere immesso sul mercato. Lo abbiamo intervistato al Burlo Garofalo, dove Gasparini lavora da 18 anni e oggi dirige 2 dipartimenti. Professor Paolo Gasparini, da 18 anni all'IRCCS Burlo Garofalo qui a Trieste, è arrivata una nomina veramente molto importante dell'Agenzia Europea del Farmaco, EMA la sigla, e siamo veramente molto orgogliosi di poter vedere uno dei nostri professori della sanità triestina arrivare così in alto. Ma ci spieghi l'importanza di questa nomina? Ma la nomina è decisamente importante per il ruolo che si va a ricoprire ad Amsterdam, perché il comitato, il CHMP è ad Amsterdam dove risiede l'EMA. È una nomina del ministro a cui ovviamente non posso che essere grato per aver scelto il mio curriculum e la mia professionalità tra tanti. È sicuramente importante anche perché non è solo un riconoscimento alla mia persona, ma è anche un riconoscimento a quello che le istituzioni presso le quali lavoro stanno facendo, e quindi sia da una parte l'Università di Trieste che dall'altra il Burlo Garofalo. Chi ricopre questo ruolo ha tra le sue funzioni quella di approvare i nuovi farmaci che si affacciano, tentano di affacciarsi sul mercato, è così? Sì, i membri del CHMP, abbiamo un rappresentante per ogni nazione, più i rappresentanti dei malati e delle associazioni e dei clinici, hanno il compito di valutare la parte finale del processo di approvazione sul mercato di tutti i farmaci. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. È partita la seconda sessione dei moduli formativi estivi. L'iniziativa di orientamento organizzata dall'Università di Trieste. Saranno bene 509 gli studenti di quarta e quinta superiore che in questa settimana potranno approfondire gli argomenti preferiti, testare i propri interessi e respirare l'aria del mondo universitario. I partecipanti provengono da istituti superiori di tutto il Friuli Venezia Giulia, ma anche da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, Lazio, Marche, Umbria, Calabria, Campania, Sicilia e in un paio di casi da Svizzera e Repubblica Ceca. I numeri dell'edizione 2023 dell'iniziativa di orientamento vedono 22 moduli formativi estivi attivati per 1030 partecipanti totali, di cui 521 iscritti alla sessione di luglio, 25 online, e 509 iscritti alla sessione di agosto-settembre, 95 online, un incremento considerevole di quasi 400 ragazzi rispetto all'edizione precedente. Tra ecosistemi e protagonisti del tempo come l'enorme scheletro di mammut in mostra da oggi a Trieste alla mostra Ice Age, i giganti dell'era glaciale. 8 e alto 3 metri e lungo 5, una stazza media per un mammut che ne fa tuttavia uno dei giganti dell'era glaciale. È lui infatti la star della mostra Ice Age inaugurata nel Palazzo della Regione in Piazza Unità a Trieste, visitabile fino al 9 settembre. Le ossa del suo scheletro arrivano dalle parti più disparate del pianeta. A metterle insieme è l'azienda triestina Zoic di Flavio Bacchia. Otto è un mammut, un mammutus primigenius, l'elefante lanoso, animale di clima freddo, che si spostava un po' in giro per tutta l'Europa, Siberia inclusa, a seconda delle variazioni climatiche in quella che generalmente viene definita era glaciale. Le ossa non appartengono tutte alla stessa bestia. Perché? Perché gli esemplari interi si trovano rarissimamente e giustamente devono seguire certe procedure scientifiche. Mi piace dire che c'è una parte russa e una parte ucraina. Le abbiamo avute, le abbiamo messe insieme, ci abbiamo messo un sacco di tempo. Tra le peculiarità di Otto, quella di portare addosso i segni del suo incontro con l'uomo. Dei segni lasciati da delle asce di selce, di pietra indifferente, con le quali dei neandertaliani avevano scardinato il femore per portarsi via il prosciutto, lasciando quello che non gli serviva là, a prova dell'intervento umano che molto probabilmente è stata una delle cause di estinzione di questi animali. Ad affiancarlo altri grandi mammiferi come un rinoceronte lanoso, un bisonte delle steppe e un cervo gigante. Sabato 2 e domenica 3 settembre Otto si trasferirà direttamente in Piazza Unità, ospite di Trieste Maker Fair. Poi, conclusa la rassegna, partirà probabilmente per altre destinazioni. Adesso vediamo di proporre lui e la mostra ad altre realtà, altri musei, perché il lavoro fatto vale una certa itineranza. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Al Teatro Stabile Furlan sono in corso le prove di allestimento di una delle novità previste dal cartellone 2023-2024 dal titolo Ciclo di studi fa, trasposizione in friulano di una pièce in frisone, lingua minoritaria, parlata nei Paesi Bassi. Proprio per lavorare alla messa in scena sono arrivati oggi a Udine Freyark Smink, autore e interprete della pièce, insieme a Clavie Posma, la seconda attrice in scena. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico Massimo Somaglino, indagando i punti di contatto tra le due lingue e tra le due realtà. Punti di contatto stanno nella storia, nell'argomento trattato. La storia racconta di un contadino alle prese con la modernizzazione del suo mestiere e con i cambiamenti dovuti alla modernità, e questo riguarda tutti i popoli che hanno una tradizione contadina da cui derivare, quindi i friulani, i frisoni, indifferentemente. Questo sì. Dal punto di vista linguistico non ci sono molte affinità, le lingue sono molto diverse. Però la traduzione è sempre anche un tradimento, quindi nella traduzione si cerca di riportare alla realtà friulana, c'è il punto di vista sempre di una lingua minoritaria, questo è un punto di partenza piuttosto importante, perché oggi si usa l'aggettivo minorizzata per parlare della lingua minoritaria, no? Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci si sente sempre stranieri, ci si sente sempre un po' discriminati, dimenticati, sull'orlo del precipizio. I rapporti fra lingue minoritarie forse ci fanno sentire meno soli, cioè se c'è un futuro per le lingue minorizzate è nel prendersi per mano, nel prendersi a braccetto, nel costruire una rete di rapporti, di attenzioni e di rispetto reciproco. Per noi Teatri Stabile Furlan è un progetto molto interessante perché permette un'apertura della cultura friulana, che è sempre pensata e sempre stata vissuta un po' come una chiusura invece, cioè parliamo del nostro orto, invece qui noi dobbiamo cominciare a parlare degli orti degli altri, dobbiamo capire che gli orti ci riguardano, i nostri, come altrui. Dagli archivi del comune di Gemona spunta uno stendardo di epoca napoleonica realizzato nel 1807 in occasione dell'incontro tra la municipalità di Gemona e altre dei comuni intorno e Napoleone, che il 12 dicembre di quell'anno arrivò da Udine a Osoppo per visionare i lavori di rafforzamento del forte che lui stesso aveva richiesto. Il comune sta valutando di esporre lo stendardo nel nuovo allestimento del Museo di Palazzo Elti, ora in fase di progettazione. Lo stendardo raffigura l'aquila imperiale su tondo bianco in campo blu, contornata da una fascia dorata con la scritta Onore e Patria. Sopra e sotto il tondo sono raffigurati un elmo, il collare della Legion d'Onore. Il tondo era chiuso dal mantello imperiale rosso con nappe dorate, sormontato da una corona e da due coccarde tricolori francesi. Il tutto circondato da una corona d'alloro. Ai quattro angoli gli scudi della municipalità di Gemona con le due bande rosso e oro. Lo sport è calcio, con l'Udinese che oggi alle 18:30 gioca nel posticipo della seconda giornata di campionato in casa della Salernitana. I friulani sono chiamati a smuovere il punteggio dallo zero tondo in classifica dopo la sconfitta dell'esordio in casa contro la Juventus. L'altro pensiero in casa bianconera è il calciomercato. La porta dello spogliatoio friulano continua a rimanere aperta almeno fino al 1 settembre. In uscita veto, ma c'è da aspettare la firma, lo insegna la vicenda Samardžić. Del centrocampista della nazionale serba Sottil ora ha più bisogno, ma ci vorrebbe anche la decisione di Pereira di ritornare ad essere un giocatore del club friulano. E adesso parliamo di mountain bike con un appuntamento che ha richiamato un gran numero di partecipanti. Erano oltre 200 gli sportivi inclusi in 12 categorie che ieri a Clout hanno partecipato alla prima edizione della Gran Fondo Dolomiti Friulane Bike, valida come quarta prova nel circuito del Tour Friuli Venezia Giulia Mountain Bike della Federazione Italiana Ciclismo, che include le più importanti gare di settore su lunghe distanze in regione. Tra gli uomini è stato Ramon Vantaggiato ad aggiudicarsi il primo posto di un percorso sviluppato su un tracciato di 54 chilometri con 2390 metri di dislivello positivo, riuscendo a prendere il comando della gara lungo la prima salita di 12 chilometri con Diego Carnielutti e Alberto Cudicio, per poi avere la meglio negli ultimi chilometri di salita e chiudere con il tempo di 2 ore 42 minuti e 57 secondi. Commenta il vincitore uomini Gran Fondo Dolomiti Friulane Bike, Ramon Vantaggiato. La gara si è decisa nella seconda salita, che durava circa più di mezz'ora, veramente stretta su qualche sentiero un po' ripido e qualche sasso mosso, si è decisa là. E ho scollinato per primo e ho mantenuto il vantaggio fino all'arrivo. Secondo classificato Diego Carnielutti a distanza di poco meno di 3 minuti, mentre Cudicio ha concluso in 2 ore 48 primi e 17 secondi. Per le donne è stata Beatrice Fontana ad aggiudicarsi la vittoria, a sua volta ponendosi in testa all'inizio della prima salita e conquistando il podio in 3 ore 45 primi e un secondo, seguita da Anna Nonino con 3 ore 52 primi e 6 secondi e da Federica Spessot al terzo posto. Spiega la vincitrice donne della Gran Fondo Dolomiti Friulane Bike, Beatrice Fontana. Il percorso era molto bello perché c'erano dei punti anche dove si vedeva giù, si era fuori dal bosco e devo dire che era veramente bello, bei sentieri, bei posti, puliti, belli, belli. La competizione assegnava anche il campionato italiano Avis a fronte della rilevanza dello sport per l'associazione Volontari Sangue. Commenta la presidente Avis del Friuli Venezia Giulia, Lisa Pivetta. Un testimonial migliore dello sportivo per noi non c'è, come stili di vita sani e corretti, e quindi continuare a veicolare la nostra mission in questo modo, benissimo. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Attività per rinnovare il corpo e lo spirito sono quelle offerte dalla società Lignano Pineta, come ad esempio il Nordic Walking e da quest'anno lo yoga e il Forest Bathing. Come spiega il presidente Giorgio Ardito, la nostra filosofia è di offrire attività ed esperienze che portino un benessere completo ai turisti. Il tempo non è stato clemente, soprattutto a luglio, ricorda, ma la partecipazione è stata significativa, soprattutto da parte del pubblico femminile. Sono state circa 300 le persone che hanno frequentato le discipline proposte, ha detto, e la maggior parte si è concentrata proprio sul Nordic Walking. È tutto per questa edizione del giornale radio. Vi ricordiamo che l'edizione del pomeriggio, l'ultima edizione della giornata, andrà in onda alle 18.05 invece che alle 18.30 per dare spazio poi alla radiocronaca di Salernitana Udinese. Alla parte tecnica Carlo Morello, Daniela Postu e Vassia Krismancic. In redazione ha collaborato Daniela Sossi. Da Dario Ronzoni e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.